e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Sono tornata, sto bene. Eccomi qua. Perché mi rivedi? Prima cosa. Seconda cosa, perché ho guidato con attenzione, avendo fatto tanti chilometri di autostrada, ma con le scarpe comode, perché se mi presentavo con l'infradito non ti avrei mai voluta sentire, un po' per le questioni estetiche. E poi non lo si so può, che a te proprio non... Non è vero. E vedi veramente che c'è il pregiudizio anche da parte tua? E con l'infradito che ti scivola il piede, ma puoi guidare. Ma ti rendi conto? Ti rendi io conto? Sono assolutamente contrario. Ma anche io assolutamente, figurati. Però, no? Però, come dire, ce ne facciamo un fiocco. Ce ne facciamo una ragione. Quante cose non ci vanno giù in questo periodo, eppure ce le dobbiamo far andare bene. Però con un sorriso stampato in faccia ci facciamo andare giù anche l'infradito al volante. Voi avete mai provato a guidare con questa modalità 800-24-0? Che non mi venga in mente di mandare la foto. Perché Nicoletta mi si alza? No, una foto di un bel piede curato in un bel infradito mi piace. Vabbè. Però insomma, guidate soprattutto con attenzione. E se adesso scappate per il weekend, il venerdì sera, pronti ad andare al mare per alleggerirvi di tutto l'ambaradan che avete addosso, non infilate l'infradito e guidate per 200 km, che non va bene. Bisogna come, fare un po' di attenzione. Come un ambaradan con sì, la N finale così. O così. Va bene. Vabbè. Comunque, mi raccomando, la M infradito, la N. Ma. Infradito, zoccoletto, mocassino, sì. Scarpetta da auto. L'importante è cioè una tennis leggera, che è la più sicura per guidare. A piedi nudi non si può. Direi di no, anche perché farà anche un po' male se ti scivola sulla frizione. Ma ti rompi adesso le tu unghie. Hai un esperto bravo che ci racconta tutte certamente, queste cose. Tra poco no, tra poco ce l'ho. Ah, forse lo vedo già in il suo nome. Davvero? Sì, è lui. È lui. E lui. Dai, salutalo. Enrico Cinotti, ciao, vice direttore del Salvagente. Buongiorno. Ciao, tra l'altro, guarda, adesso noi sì abbiamo fatto tutta questa apertura, ma dovremmo farla bene con la musichetta della rassegna stampa, anticipare anche la giornata sui mercati finanziari. Enrico ha scritto anche un libro che ti piacerà molto, Nicoletta. Forse ne abbiamo già parlato anche a Cuore Denari, che è vai a fare, allora aspetta Enrico, dimmelo tu, va, che me lo sono dimenticato. Fare la spesa se sai leggere la spesa, com'è che è? No, è facile fare la spesa se sai leggere l'etichetta. Allora, le sa tutte, le sa tutte Enrico. Sopravvivenza e al supermercato. Bravo, poi ti invito anch'io Enrico. Benissimo. Chissà mai. Comunque, guidare, andare a fare la spesa, lavorare, l'importante è usare la testa. E io vi ho proprio invitato un super esperto che ci darà consigli per una mente allenata e soprattutto vigile e attenta. Poi dalle quattro ruote passeremo alle due e parleremo di bicicletta, perché in questo periodo c'è il Tour de France e quindi l'attualità è rispettata, ma non solo. Quest'anno la bici compie 200 anni e porta anche bene, direi. Brava, smagliante. E noi parleremo di questo, quindi, e anche di città amiche della bici e di un'app, insomma, tantissime cose mi taccio. Allora, prima cosa, i mercati sono molto positivi stamattina, Milano guadagna lo 0,8%, siamo in attesa della testimonianza al congresso americano, ancora una volta, della presidente della Banca Centrale Americana, Janet Yellen. I migliori titoli stamattina di Milano, vi dico quelli che guadagnano più di due punti, Banca Generali, STM ed Azimut, i peggiori, Salvatore Ferragamo perde un punto e mezzo, Fiat Chrysler meno 0,40. Prima di andare al primissimo approfondimento di oggi che vi abbiamo anticipato poco fa, vi segnalo anche che oggi, siccome ne abbiamo parlato due giorni fa, il tema dei nuovi voucher per fare queste assunzioni di breve libretto famiglia. Libretto famiglia, bravissimo, il contratto di prestazione appunto veloce, quello breve. Il Sole 24 ha preparato sul sito un forum dove i lettori possono inviare le domande sui voucher. Segnatevi l'indirizzo www.ilsole24ore.com/nuovi voucher. Risponderanno gli esperti del Sole 24 Ore e una selezione delle risposte più rilevanti sarà pubblicata sul Sole 24 Ore di lunedì prossimo. Andiamo, come vi anticipavo, alla prima chicca di oggi, visto che molti di voi non vedono l'ora che arrivi il venerdì sera, togliersi l'abito impegnativo da lavoro e ufficio, mettersi scarpe comode e guidare verso il mare per il weekend. Però in che tenuta vi mettete alla guida? Con l'infradito, attenzione, perché c'è questa leggenda metropolitana, purtroppo lo è, secondo la quale se ti ferma la polizia verrai multato. È una regola di cui tutti, infatti lo diceva anche Nicoletta poco fa, siamo tutti convinti. Che non è che faccio testo, perché... Però tu, cioè, diciamo, il buon senso ci suggerisce che guidare in quella maniera lì non è che sia tanto sicuro. Ti scivola, no? Un po' il piede. Invece gli amici del Salvagente, questa pubblicazione dedicata interamente alla vita dei consumatori, ha scoperto che le cose non stanno proprio così. Risalutiamo il nostro amico Enrico Cinotti. Enrico, allora, intanto per questa occasione, più che di carrello della spesa, ti trasformi in esperto di codice della strada, giusto? Ma sì, diciamo, ecco. Come dire, insomma, anche il ruolo lo impone, ma semplicemente abbiamo scorso le FAQ, cioè le domande più frequenti sul sito della polizia stradale, scoprendo naturalmente che fino al 1992, cioè prima della riforma del codice della strada, era vietato condurre un'automobile o anche, diciamo, una motocicletta indossando calzature aperte. Da allora in poi è possibile, cioè nel senso che questa limitazione è stata limitata. Naturalmente, diciamo, la discrezionalità è lasciata al conducente e naturalmente, come dicevi anche tu giustamente, Deborah, prima, non possiamo, come dire, no, affrontare una meta lunghissima e guidare per tantissimi chilometri. Magari, insomma, ci troviamo a risalire magari dalla spiaggia, piuttosto che facciamo, certo, un breve percorso, ci troviamo magari non sprovvisti delle nostre scarpe chiuse, e in quel caso non incorriamo a una multa, però naturalmente stiamoci attenti alla guida, perché insomma, voglio dire, la tenuta e il grip, tra virgolette, delle scarpe aperte sicuramente sono, ecco, il look può attendere almeno quando si viaggia. Senti Enrico, ma visto che voi vi occupate appunto di vita dei consumatori, come vi è venuto in mente di indagare anche su questo argomento, di andare a curiosare, come ci dicevi tu, sulle FAQ, le domande più frequenti che vengono rivolte alla polizia appunto stradale in particolar modo? Sì. Noi abbiamo questo servizio che si chiama Chiedilo al Salvagente, che è direttamente, diciamo, gratuito, e abbiamo un pool di esperti che rispondono, e quindi, diciamo, collegandosi sul nostro sito salvagente.it, qualsiasi, diciamo, persona può rivolgersi a noi. Naturalmente, parlando di diritti e di consumi, puoi ben capire che molto spesso, per esempio, ci arrivano delle cose più disparate, tra cui anche, diciamo, questa domanda, per cui era arrivata, diciamo, in redazione questa mail, questa richiesta di un lettore, di un chiarimento, perché effettivamente era stato fermato con la ciabatta infradito al volante, ma non era stato multato, quindi lui era incredulo, sembrava, diciamo, come dire, sono stato graziato. Invece, approfondendo, abbiamo scoperto che dal 92 è possibile. Ti dico semplicemente, tra le cose che arrivano, ieri ci hanno chiesto se l'obbligo di indicare l'origine del latte nel gelato e nelle torte gelato è scattato oppure no, per dire, diciamo, che poi, insomma, no, il cittadino, di fronte a anche a uno scoglio o a un dubbio quotidiano, magari trova anche noi, insomma, la possibilità di avere una risposta. Chiarissimo. Allora, intanto c'è un ascoltatore che ribadisce: ma lo sapete che è vietato guidare con infradito, ciabatte e compagnia bella? No, lo abbiamo detto fino a questo momento, lo era fino al 1992, e invece la polizia stradale da quel momento in avanti appunto ha chiarito che nel codice della strada questa norma non esiste più, e adesso si può guidare appunto con i piedi in libertà. Naturalmente noi non invitiamo a farlo, invece circolate con le calzature in tutta sicurezza, perché naturalmente poi con il piede sudato. Oppure, se la ciabattina è quella di gomma, no Nicoletta, magari, che ne so, improvvisamente salta via l'appoggio Sono assolutamente d'accordo. E rimango, non, cioè, se io non guiderei mai con infradito. Appunto, che ti sto dicendo, infatti, sono con te, poi no, anche perché appunto scivola. No, tra l'altro stavo pensando, Enrico, adesso qua bisognerebbe veramente aprire un versante un po' più ampio, non so neanche se tu questa informazione la conosci, ma ammettendo di causare un incidente, magari un banale tamponamento, proprio perché con la calzatura scomoda ci hai dato un po' più pesantemente sul pedale dell'acceleratore, insomma, poi bisogna anche vedere se in realtà qualcuno ti contesta una guida non corretta e non sicura. Chiaramente, guarda, la ratio, diciamo, di questa, così come ce l'hanno naturalmente spiegata, è legato proprio alla, come dire, insomma, alla diversità con la quale sono stati poi realizzati negli anni i veicoli, fondamentalmente una riduzione della corsa del freno, della frizione, il servofreno, cioè è aumentata parallelamente, diciamo, la dotazione attiva di dispositivi che servono naturalmente anche a correggere, tra virgolette, no, una guida poco poco attenta, e quindi parallelamente anche la possibilità magari di guidare con una scarpa aperta. E questo, diciamo, poi naturalmente nella fattispecie dell'incidente, questo, diciamo, come dire, insomma, bisognerà accertarlo. Vero è che comunque, ripeto, non c'è questo divieto, quindi nel caso in cui Vabbè, insomma, però noi lo si invita ad usare la testa, perché non è che là dove non c'è il divieto uno spegne. Bravo, esatto, visto che dei problemi ne abbiamo già tanti, direi, non ce ne inventiamo anche noi mettendoci alla guida, godiamocele queste vacanze e arriviamo alla località prescelta, naturalmente in tutta sicurezza. Per chiudere segnalo che l'articolo che abbiamo commentato, tratto dalle pagine del Salvagente, non è stato scritto da Enrico, che essendo vice direttore della pubblicazione Revisionato e Corretto, ma l'ha scritto la collega Valentina Corvino. Quindi Enrico, grazie per essere stato con noi, buona estate. Buona estate. Esatto, e naturalmente ricordo anche che tu hai pubblicato di recente È facile fare la spesa se sai leggere l'etichetta. Peraltro noi dopo parleremo anche di frutta e verdura, per cui questa pubblicazione magari ci serve a portarcela anche al mercato o al supermercato. Il traffico tra poco. Cuore e denari. Tu hai parlato di piedi, sì. In fondo anche tu hai parlato proprio di piedi, di infradito, di scarpe. Io salgo, parlo di cervello, di mente, e vogliamo allenarla. C'è un libro fresco di stampa, si intitola Allena la tua mente in 5 minuti ed edito da Gribaudo. Il suo autore, che a noi piace molto, Deborah, adesso che ti dico chi è, confermerai. Ho intravisto qualcosa. È Matteo Salvo. Ciao Matteo. Ciao Nicoletta, ciao Deborah. Fondatore e direttore generale della scuola di apprendimento Mind Performance, primo istruttore certificato per insegnare le mappe mentali e, non ho finito, campione di memoria, ma non ho finito, ma lo scopriremo strada facendo. Matteo, noi abbiamo un pochino più di 5 minuti, quindi sarà una seduta breve ma super allenante. Fantastico. Allora, fantastico. Partiamo da qua. Tutti lo sappiamo che allenare il cervello non ci può che fare bene, ma... Certo, è un muscolo. È un muscolo. Tu hai 10 consigli utili per mettere il turbo a questo muscolo. Raccontaci i primi 4, per gli altri invitiamo i nostri amici ad andare sul nostro sito e a scaricare il podcast. Matteo, partiamo. Allora, la prima cosa è prepararsi mentalmente alle cose che dobbiamo affrontare, sia che sia una gara sportiva che la spesa, piuttosto che una riunione di lavoro. Se prima anticipiamo mentalmente quello che dovremmo affrontare, è come se l'avessimo già affrontata diverse volte quando andremo lì. E quindi questa fase di preparazione è fondamentale, e una cosa che a me piace sempre trasferire è imparare qualcosa talmente bene prima da potermene dimenticare dopo, in certo, quanto saprò già come gestirla. Fammi un esempio concreto. Io devo vedere sono giorni caldi, devo vedere il mio capo. Che cosa devo fare? Preparo mentalmente il momento in cui lo incontrerò, immagino la sensazione che proverò, immagino le domande che mi può fare e preparo le risposte in modo da non essere colto di sorpresa. Tutti questi aspetti, chiaramente, quando uno arriva pronto, fanno la differenza, mentre certo, tanti vengono presi in contropiede. Abbiamo parlato di un incontro di lavoro, di un incontro importante, ma la stessa strategia tu la suggerisci per chi affronta una gara. Assolutamente sì, assolutamente. Sportivi è amatoriali che decidono di cimentarsi in una performance, dalla maratona a una partita tennis, visualizzare e prepararci mentalmente a quello che ci dovrà capitare. Questo è il punto numero uno. Esatto, esattamente, sì. Prepararsi sempre mentalmente prima, perché quando ci prepariamo mentalmente, dopo le cose verranno da sole, inseriremo il pilota automatico. Perfetto. E l'unica cosa che capiterà magari è un imprevisto che non abbiamo ipotizzato, ma fa parte dell'esperienza. Più imprevisti riusciamo a ipotizzare prima, meglio riusciamo a gestire la situazione dopo. Certo. Senti, punto numero due. È riuscire a gestire l'emotività, a rimanere rilassati e calmi durante la prestazione, perché lo stato emotivo tante volte penalizza, molte persone sono preparate, ma quando dopo si trovano durante la prestazione, lo stato emotivo li penalizza perché non riescono a gestirla. E perché e tante volte noi diciamo: guarda, ero così agitato, così preoccupato che non lo so, avevo la testa vuota. Ecco, dato che a tutti è già capitato questa spiacevole sensazione, giochiamo d'anticipo e cerchiamo di, anche in questo caso, visualizzare, cercare di resistere, di essere pronti. Sì, allora, è importante riuscire a visualizzare e trasformare l'esperienza a nostro vantaggio. Se una persona patisce molto questa situazione e non riesce a gestire l'emotività, può fare tantissime cose. Ci sono delle visualizzazioni che servono proprio per calmarsi, riuscire a entrare in un altro ambiente mentalmente, in modo da affrontare la situazione in modo diverso. È un po' come dire, se dovessi sostenere un colloquio e la persona che ho di fronte mi mette in soggezione, se io immagino la persona di fronte in modo diverso oppure come una persona con la quale io comunico in modo estremamente sicuro e piacevole, allora questa mia riflessione, questo mio pensiero mi aiuterà a comunicare a questa persona in modo diverso. Andiamo al consiglio 3 e poi a quello 4 per gli altri 6, rimandiamo al nostro sito. Al numero 3? Al numero 3 è fondamentale visualizzare l'obiettivo finale. Quando facciamo una gara o qualcosa dove viene richiesto a noi di dare il nostro meglio, è importante avere sempre lo sguardo sull'obiettivo in modo che le difficoltà possano essere superate con più facilità quando uno è focalizzato estremamente in modo preciso su quello. Se uno invece ha lo sguardo focalizzato sulle difficoltà, ci si fermerà contro. Ed è sempre così, purtroppo. Se uno ha paura di cadere, alla fine cadrà e penserà: ecco, vedi, lo sapevo che non riuscivo a finire. E quindi visualizzare bene l'obiettivo mantiene la rotta giusta. Considerando che viviamo per rinascere ogni giorno, scriveva Neruda, quindi anche di fronte alle difficoltà noi vediamo un po' la soluzione già alla fine e magari ci vediamo vincitori. Sì, è questo, bellissimo questo. Dai, come quando andiamo dal dentista, ci sediamo, ma io già mi immagino quando sono fuori e ritorno, ecco, certo, può aiutare. Il sorriso, la stretta di mano del docente e così via. Aiutano tantissimo. Un nostro amico assiduo, che è Francesco il piastrellista, ci dice che lui usa proprio queste strategie quando deve piastrellare un appartamento. Ecco, vedi, si fa una sorta di mappa mentale. Matteo, posso dire, è corretto? Sì, certo, lui vede il lavoro finito e questa cosa qua non ti fa dormire di notte. Non vedi l'ora che sia fatto finito perché tu ce l'hai già in mente come verrà e quindi non vedi l'ora di colmare lo spazio che c'è tra lo stato attuale e lo stato che tu hai in mente. E la stessa cosa succede quando uno visualizza e ha bene chiaro in mente il traguardo, la sensazione che avrà dopo. E per fare questo, una cosa che aiuta sono tantissimo le mappe mentali, perché ci danno una chiara visione di insieme e quindi ci aiutano ad anticipare tutte quelle che sono le situazioni critiche. E dopo la mappa mentale, dando una visione d'insieme chiara, ci dà un grande beneficio. Allora, se volete saperne di più, io devo salutarti, Matteo. Io ho detto, dovevo aggiungere, lui fa anche triathlon, quindi, quindi oltre a questo, a dimostrazione che una mente ben allenata si traduce anche in un risultato sportivo. Nel triathlon si va anche in bici e noi parleremo di bici. Matteo, ti saluto, ti ringrazio, allena la tua mente in 5 minuti e andate a scaricare il podcast con i consigli di Matteo Sassi. Noi invece andiamo ad allenare la nostra mente sentendo il GR, poi ritorniamo subito dopo insieme a Cuore Denaro. Cuore e Denari. Ma io quando ero giovane sentivo questa canzone, mica capivo che dicesse Tutti Frutti. Lo sapevi tu? Beh, no, me l'avevano poi detto. Sentiamola, va, balliamo, va. facciamoci questa bella sudata con questi 40 gradi di fuori, ci manca pure insomma una bella danza della pioggia, per la verità. Allora parliamo di frutta e verdura d'estate, cerchiamo di capire che prezzi troviamo al mercato, al supermercato, e che impatto c'è stato anche dalle condizioni climatiche degli ultimi mesi. La notizia è che c'è stata una caduta dei prezzi della frutta estiva, una caduta evidentissima rispetto alle annate precedenti per le albicocche e consistente anche per le pesche. Voi che prezzi state trovando? Allora, intanto, per quello che riguarda la qualità e la relazione con questa siccità record e un caldo veramente asfissiante, che pare, Nicoletta, che non ci sia stato mai un cocomero così buono come quello di quest'anno. L'anguria va alla grande, matura bene, al punto giusto, gustosissima. Lo racconta la Repubblica di Roma questa mattina, l'edizione romana, dove pare appunto che sia un periodo veramente ottimale, ci sia in commercio in questo momento la frutta più buona di sempre, l'altra faccia della siccità record. E visto che tu la sostieni come consumo, certo, ne abbiamo parlato anche con Attilio Speciani qualche giorno fa, no? Ti ricordi bene. In relazione con il ghiaccio, quindi se proprio il ghiaccio per rinfrescarvi non vi piace, assaporatelo un po'. Soprattutto per chi teme di bere perché magari suda eccessivamente. Esatto. Speciani diceva: indicava, prendete l'anguria, la tagliate a cubetti, la frullate e avete un'acqua di anguria. Ah, bene, e ottimo, quindi buono. Potete berla senza sudare troppo. Al mercato ortofrutticolo di Guidonia, il CAR di Guidonia, anche gli ortaggi sono i più gustosi degli ultimi 50 anni, racconta sempre questo pezzo questa mattina di Repubblica Roma. I grossisti dicono: qualità e quantità si riflettono sui prezzi, che però rimangono troppo bassi. Buona notizia per noi consumatori, un po' meno naturalmente per gli agricoltori. Allora, salutiamo e ringraziamo di essere con noi questa mattina. Un gradito ritorno, quello di Giorgio Mercuri, presidente dell'Alleanza delle Cooperative Agroalimentari. Presidente, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Allora, io invito come sempre i nostri ascoltatori a fare i reporter per un giorno, i reporter magari per un'oretta, per conto di cuore e denari. Potete andare in bici al mercato. Brava, perfetto, esatto, dai. Mettete la busta con frutta e verdura sul cestino, se ce l'avete davanti, di dietro, dove volete, e mandateci anche la vostra fotografia, quindi l'abbinata degli argomenti di cuore e denari. Allora, intanto, state acquistando verdura e in particolare frutta quest'estate, magari siete stati proprio negli ultimi minuti al mercato, al supermercato, meglio al mercato per la frutta e la verdura. Raccontateci cosa notate nei prezzi, nella provenienza, nella qualità. Fate i nostri reporter per un giorno, indagate per noi sui prezzi di frutta e verdura. Presidente Mercuri, allora proviamo intanto a cominciare con una consueta abitudine che abbiamo, quella di rilasciare e scattare una fotografia di quello che sta succedendo in questa estate 2017. Noi qualche giorno fa abbiamo sentito parlare di un calo importante dei prezzi, in particolare per due frutti simbolo dell'estate, se possiamo definirli così, pesche e albicocche. Ce lo conferma? Sì, è quello che si sta riscontrando in questi giorni, un grosso calo dei prezzi, una presenza eccessiva di prodotto sul mercato che naturalmente proviene proprio da questa estate torrida e da una situazione di siccità che stiamo vivendo sul territorio nazionale. Quindi tutta colpa, diciamo, delle condizioni climatiche. Qual è l'entità di questo calo dei prezzi, Presidente? Ma siamo, se prendiamo l'esempio l'anno scorso, siamo oltre il 20% in meno il prezzo, che naturalmente si ripercuote fortemente su quelli che sono i costi di produzione dei nostri agricoltori, perché abbiamo un aumento dei costi nella produzione che è del 30% in più, dovuto al fatto che dobbiamo dare necessariamente più acqua per far sì che questo prodotto si possa mantenere salubre e ricco di parte idrica affinché un prodotto sia poi presentabile, certo, al mercato. Oltre al danno, la beffa, inevitabilmente, come spesso succede a tutto il mondo appunto degli agricoltori. Temperature elevate quindi che provocano questo stato di cose. È una situazione, Presidente Mercuri, molto complicata, soprattutto per alcune regioni. No, so che il sistema produttivo emiliano-romagnolo in primo luogo è particolarmente colpito. Ma diciamo sono quelle regioni dove c'è la maggiore concentrazione di alcuni prodotti, soprattutto prodotti facilmente deperibili, perché quando parliamo di pesche, albicocche, prugne, sono prodotti altamente deperibili che non possono essere conservati, devono essere raccolti e consumati e quindi la concentrazione di prodotto e le aree particolarmente vocate per questa coltivazione oggi subiscono il maggior danno. Mm. È anche vero che da questo, come ha detto in apertura lei, da questa difficoltà ne ha un beneficio il consumatore, che si trova oggi sul mercato un'abbondanza di frutta con un gusto particolare, perché quello che dà valore e sapore ai nostri prodotti è soprattutto il tempo di presenza alle temperature elevate, quindi al sole. Notate anche, ecco, notate allora, visto che la qualità comunque della frutta è particolarmente buona quest'anno, notate un consumo più alto, quindi poi che quantomeno compensi tutte le problematiche che ci ha rappresentato prima, Presidente, quantomeno le eccedenze le consumiamo. Purtroppo non è così, ma anche perché io, non per dire che sono diminuiti i consumi, perché i consumi non sono diminuiti, quindi non c'è un discorso di riduzione di consumi, il discorso è che l'accavallarsi di più prodotti contemporaneamente portano il consumatore ad avere una gamma vasta di prodotti e quindi magari ad alternare un prodotto all'altro. Non abbiamo una scalarità di prodotti, noi ci siamo, oggi se andiamo sul mercato troviamo... Ancora ci sono ancora le ciliegie, abbiamo poi tantissime albicocche, prugne, pesche, ma abbiamo angurie, meloni, e qua, quindi c'è una gamma immensa di frutta e il consumatore è portato a prendere l'uno rispetto all'altro e quindi alla fine non abbiamo sostanzialmente la possibilità di dare più sfogo a quelle che sono le produzioni, certo, che oggi si trovano sul mercato. Senta, Presidente, io capisco che, come lei ci ha raccontato prima, tutti questi problemi del tracollo dei prezzi della frutta siano determinati dalle condizioni climatiche. Sono però dei rischi che nel mondo agricolo si conoscono molto bene, no? Quali sono stati quei fattori che vi hanno proprio particolarmente colto di sorpresa? La siccità, quindi, particolarmente forte e rilevante, ovviamente non si può prevedere quello che succederà dal punto di vista meteo, di conseguenza gli agricoltori continuano a fare il loro lavoro come se le stagioni continuassero ad andare appunto come sempre le conosciamo. In realtà tutta la questione è anche legata al proverbio "non ci sono più le mezze stagioni", purtroppo sono anche vere, perché abbiamo delle condizioni molto differenti rispetto a qualche anno fa. Che cosa quest'anno vi ha particolarmente colpito di sorpresa? Ma in realtà noi, essendo un'impresa a cielo aperto, conosciamo bene da agricoltori quali sono le difficoltà. Le nostre programmazioni vengono spesso alterate da quelle che sono poi gli effetti climatici. E da quest'anno, come negli ultimi 2-3 anni, per alcuni prodotti, quello che avevamo appena citato prima, viviamo la difficoltà di non avere mercati vicini dove poter piazzare il nostro prodotto. E la nostra produzione nazionale supera del 50% il consumo interno, quindi un po' tutti i nostri prodotti ortofrutticoli devono necessariamente essere esportati. Per i prodotti più deperibili, naturalmente, i posti più vicini sono quelli dove facilmente possiamo arrivare. Un nostro mercato di riferimento importante era quello russo, dove riuscivamo a piazzare tantissimo della nostra frutta perché era facilmente raggiungibile, dove negli anni avevamo fatto un'operazione di promozione proprio per crearci spazio su quei mercati. Certo, con l'embargo. Con l'embargo questo ci è stato, ha bloccato questo mercato, e trovare mercati vicini dove poter piazzare prodotti facilmente deperibili non è così facile. Certo. Tanto è che l'Europa, rispetto a questo, negli ultimi anni ci sta venendo incontro, ma ogni anno le risorse si riducono, ogni anno eventi atmosferici come quelli di quest'anno creano ancora più difficoltà, quindi è chiaro che tutto questo ne subisce l'agricoltura. Un esempio per tutti: negli ultimi anni noi abbiamo ridotto di oltre il 7% la superficie in pesca e nettarine proprio per queste difficoltà, la perdita di mercato e la difficoltà dell'agricoltore che non riesce a fare più reddito. Allora, Presidente, peraltro io volevo ricordare anche ai nostri ascoltatori la prima volta in cui ho avuto l'occasione di interagire con voi dai microfoni di Radio 24, era il 2014, e ricordiamo ancora che in quell'estate si verificò il caso delle pesche nettarine, delle quali si era addirittura richiesto un ritiro dal mercato e che ci fu poi concretamente. Proviamo a ricostruire quello che è successo quella volta per capire se quest'anno abbiamo i rischi, appunto, che si verifichi una situazione analoga. Presidente, dov'è finito? Non la sento più. Io ci sono. Eccoci ci sono. Qua. Sì. Certamente l'evento 2014 fu un evento straordinario perché non era prevedibile, quindi quello che accadde accadde a stagione inoltrata e quindi ricorremmo a interventi straordinari della stessa Comunità Economica Europea affinché si potesse dare sfogo a quelle produzioni. Da lì però questo si è ripetuto negli anni, ho detto anche quest'anno l'Europa ha messo a disposizione per quelle produzioni che andavano sui mercati russi di una risorsa economica importante affinché si possa intervenire sulle aziende. Il problema è che queste risorse che quest'anno per l'Italia comportano una capacità di ritiro di oltre 12.000 tonnellate di prodotto che vengono poi destinate attraverso enti caritevoli alle persone che ne hanno bisogno. Quindi non è un prodotto che viene distrutto come avveniva negli anni Ottanta, è un prodotto che viene comunque dato al consumo. E queste risorse però rispetto a quelle che sono l'aumento dei costi che hanno nelle nostre aziende agricole non riescono neanche a ricoprire un 50% di quelli che sono i costi reali, quindi la difficoltà rimane. È chiaro che l'unico modo per rispondere alle difficoltà è quello di avere un mercato capace di assorbire il prodotto. E, ho detto, non ci troviamo di fronte a una superficie eccedentaria rispetto a quello che il mercato può assorbire, ci troviamo di fronte a due fattori che si sono concentrati, uno è la carenza di uno spazio di mercato, l'altro è un eccesso di temperature e di siccità che ci sta provocando questi problemi. Allora, intanto, no, tra l'altro adesso noi stiamo commentando la situazione attuale, questa stagione, pesche, albicocche e la condizione anche di prezzo di quello che troviamo in questo momento al mercato. Ma se questa situazione dovesse continuare, Presidente Mercuri, quali altre ripercussioni vi aspettate per la frutta e la verdura della prossima stagione, per esempio del prossimo autunno? La situazione è di questo tipo. Innanzitutto noi ci auguriamo che un po' le temperature arrivino, le prime piogge che possono aiutare sicuramente, che le temperature si mettono nelle condizioni di normalità e che i nostri, io dico sempre, chi ci può dare una grande mano sono i consumatori, perché se loro acquistano e consumano frutta e verdura ci aiutano notevolmente, aiutano la nostra agricoltura. Perché la preoccupazione forte che noi viviamo è che ogni ettaro di terreno che perdiamo nella coltivazione diventerà opportunità per altri per far arrivare prodotto in Italia. Quindi noi non possiamo perdere spazio sul nostro scaffale per dare spazio ad altri. Alle fragole che arrivano dalla Spagna ad aprile, dico io. Esatto, perché insomma, magari, sono un po' razzista, però conserve e marmellate. Esatto. Noi dobbiamo sempre di più consumare i nostri prodotti, i prodotti di origine italiana sono i più buoni, lo dicono in tutto il mondo, noi ce l'abbiamo, dobbiamo assolutamente approfittare di questo. E anche meno, ho detto che rispetto a questo è chiaro, ci sono altri fattori, perché noi ci troveremo da un eccesso di prodotto a una carenza di prodotto, perché noi avremo la situazione autunnale per danni che abbiamo avuto quest'inverno sul discorso miele, che probabilmente non avremo miele sufficiente per quello che è il consumo interno, perché abbiamo avuto danni notevoli nel Trentino Alto Adige, dove purtroppo buona parte delle nostre produzioni, prima con le gelate e poi con le grandinate, sono venute meno. E quindi sono situazioni. Stavo pensando, Presidente, mi scusi, siccome siamo andati al Festival dell'Economia di Trento con Nicoletta proprio all'inizio di giugno e non eravamo molto soddisfatte dell'offerta di strudel di mele che c'era in circolazione, evidentemente già l'effetto di questa situazione climatica. Adesso io ci scherzo, ma insomma, detto questo, è una situazione molto seria quella che vivono gli agricoltori naturalmente portano avanti la loro attività in primo luogo sulla base delle condizioni climatiche condizionano pesantemente la loro vita quotidiana, no, Presidente Mercuri? Certo, ma guarda, la cosa che pochi riescono a percepire è il fatto che l'agricoltore nel momento in cui perde un raccolto o non riesce a fare reddito su un raccolto deve aspettare l'anno successivo, cioè deve aspettare 12 mesi per poter augurarsi che in quei 12 mesi non succede nulla per recuperare qualcosa. E però nel frattempo veramente non è che sta con le mani in mano, perché di quei campi, di quelle terre bisogna che si prenda cura, no? E quindi l'ordinaria e straordinaria manutenzione da parte vostra c'è sempre, quindi investimenti, soldi che vengono tirati fuori ancora prima di quelli che entrano per guadagnare. Esatto, quindi, Questa è la grande difficoltà che vive l'azienda agricola, perché non è che il mese successivo modifica la situazione attuale. Una volta passato il raccolto, bisogna augurarsi che il raccolto successivo, e quindi nei 12 mesi successivi, tutto vada secondo quelle che sono le previsioni che l'agricoltore mette in campo. E allora, quindi questa è la più grossa difficoltà di questo settore, e che spesso non viene neanche, ho detto, non viene percepito dai nostri consumatori, perché i nostri consumatori trovano sullo scaffale il prodotto 12 mesi all'anno, ma non sempre è prodotto italiano, e quindi non riescono a percepire che quel prodotto finisce in un periodo. Allora, poi guardi, Presidente, questo non lo so, perché in realtà noi abbiamo fatto tante trasmissioni su questo argomento, invitando le persone anche a leggere con più attenzione le etichette. C'è una tracciabilità molto più seria, come lei sa, rispetto sicuramente al passato. Io non direi che non ci sia attenzione, magari qualche volta l'attenzione c'è, la consapevolezza di quello che si consuma c'è però anche uno strizzare l'occhio rispetto al consumo di un prodotto che non è esattamente di stagione, ma lo sfizio ce lo si vuole togliere lo stesso, no, Nicoletta? Certo. Quindi insomma anche la fragola consumata ad aprile, così come l'arancia ad agosto, qualcuno, che ne so, per arricchire le proprie insalate vuole consumarlo lo stesso questo prodotto. Non c'è proprio anche la questione etica rigida da parte del consumatore. Secondo me la consapevolezza c'è però anche la voglia di fare, come dire, una scelta anche un po' controcorrente rispetto a quelle che potrebbe essere una scelta invece utile per il rispetto della stagionalità dei nostri prodotti. Prima di salutarla, Presidente Mercuri, allora ci dia un po', prima di acquistare un frutto di stagione, quale preferire in questo momento, così anche per dare un aiuto agli agricoltori appunto italiani che vivono questa condizione e questo frangente un pochino di difficoltà causato dalle condizioni climatiche delle ultime settimane. Pensando ai produttori locali, come consumatori, come vi possiamo aiutare? Ma certamente, ho detto, siccome la gamma è vasta, cioè abbiamo tanti prodotti, e non vorrei far torto a nessun agricoltore che sta producendo per dare il proprio prodotto a un consumatore italiano. Pesche nettarine sono il prodotto che oggi è più presente, insieme alle susine, insieme alle albicocche, ma ho detto le ultime ciliegie italiane, che sono buonissime, sono saporitissime, alle angurie, ai meloni, che sono oggi i prodotti più presenti che noi troviamo sullo scaffale. È chiaro, quello che chiedo ai consumatori, i prezzi sono buoni, mangiatene tanta perché fa bene, è un periodo, in estate più si consuma frutta e verdura e più ci aiuta anche a vivere meglio queste temperature, e soprattutto sempre l'attenzione all'etichetta, perché l'ortofrutta è stato il primo prodotto in Europa dove c'è l'origine in etichetta, e quindi significa si conosce la provenienza del prodotto. Quindi massima attenzione, salviamo l'agricoltura italiana, aiutiamola attraverso la capacità di scegliere il prodotto sempre di stagione dei nostri stessi produttori. Senta, proprio in corner, come si dice, in calcio d'angolo, arriva la telefonata di Mauro da Biella, che però deve essere telegrafico, Mauro, perché lei proprio ha chiesto di andare in onda a ridosso della chiusura. La sintetizzo io la sua domanda, perché è lunga. Il tema è: queste eccedenze che abbiamo, Presidente Mercuri, perché non le si trasforma in alimenti a lunga conservazione, tipo omogeneizzati di frutta per bambini, ma anche per chi ne ha bisogno? Lui dice, insomma, è un tema troppo ideologico, secondo voi? Assolutamente no, stiamo portando avanti, l'abbiamo già fatto con le mele l'anno scorso, lo faremo quest'anno con la frutta attraverso il Ministero dell'Agricoltura. La possibilità che siano gli enti caritevoli a ritirare il prodotto, farselo trasformare dalle nostre stesse realtà produttive e poi utilizzarlo nel tempo. È un progetto che abbiamo sperimentato sulle mele e che ripeteremo su questi prodotti. Agricoltori moderni, veramente, Presidente Mercuri. Grazie per essere stato con noi. Complimenti per la vostra attività, per tutto il mondo anche della cooperazione agricola. Direi che lunga vita alle pesche nettarine, Nicoletta. Alle tue marmellate. Buone. Ci fermiamo. Adesso vi racconto cosa succede stamattina in borsa e poi torniamo insieme. Inforcate la bicicletta, perché adesso ne parliamo. Vuoi conoscere le dinamiche e tutti gli aspetti professionali del mondo della radio? Autore, redattore, conduttore, produzioni audio e declinazioni web e social. Se una di queste è la tua strada, sintonizzati e frequenta il Master Part-Time in Content and Management di Radio 24 RDS e 24 Ore Business School. Un percorso innovativo per fornire strumenti professionali a chi ha iniziato o vuole iniziare a lavorare nel mondo della radio. A tua disposizione i massimi esperti del settore per una formazione completa ed esclusiva. Info su radio24.it. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Cuore e Denari. Passeggiando in bicicletta tanto a te. Ma sai che lo sentivo ieri in radio Cocciante, mi sono ricordata di quanto mi piacciono le sue canzoni? È un mito. E che non so se denota la nostra età anagrafica o i nostri straordinari gusti musicali. Entrambe, ecco, le cose, ottimo. E questo ci piace. Molto bene, e noi, concordo. E noi andiamo in bici con Cocciante, perché no? Perché chi ben comincia è a metà dell'opera, come anticipato nella prima parte della trasmissione. Oggi Deborah si pedala, tra l'altro pedali anche tu stai pedalo, diventando... Sì, allora non tantissimo come vorrei, è che mi si sgonfiano continuamente le gomme e fatti non ho ancora... le gomme. Ma devo, io, il problema è che io le devo portare, ma dovrei anche imparare da sola a gonfiarmele, che dici? Ma non io è che sono capace, faccio io. Devo comprare la pompa. Allora, 800 24 00 24, se volete pedalare con noi, ci sono tante buone ragioni per farlo, direi tantissime, per spostarsi da un luogo all'altro, come fa Deborah. Per rimettersi in forma, per divertirsi, per perdere anche un po' peso, per viaggiare, perché ci sono anche dei viaggi proprio tutti in bici, e perché no, per pensare. Il pedale aiuta. Molte idee sono nate proprio lì, sulle due ruote. Se pedalando quindi avete trovato, che so, una soluzione, un'ispirazione, in apertura Matteo Salvo, che è un grande esperto di allenamento mentale, sottolineava che l'allenamento mentale aiuta anche ad avere maggiori risultati sportivi, ma è valido anche il contrario. Quindi chi pedala, chi fa attività fisica, probabilmente, sorprendentemente, potrebbe sentire accendersi una lampadina e voilà. Vi è capitato? Se vi è capitato, scriveteci. Noi vogliamo un po' raccogliere le idee che vi sono venute pedalando. Chissà mai che possano aiutare qualcuno, e quindi da idea nasce idea e svoltiamo. Noi a Cuore Denari le proviamo tutte, ma soprattutto abbiamo i migliori esperti, e in linea con noi oggi abbiamo Stefano Aglieri, che è responsabile della riabilitazione cardiorespiratoria dell'Istituto Humanitas di Milano. Buongiorno dottore. Buongiorno Nicoletta, buongiorno Deborah. Buongiorno. Allora, lei è un esperto, useremo anche la bicicletta per il nostro cuore, per allenarci, per stare bene, ma è anche un super appassionato. Così si dice. Quindi sì, prendiamo molto... due piccioni, non la so mai queste, due piccioni con una fava? Una fava con due piccioni? Non lo so, dottor Aglieri. Allora, due piccioni con una fava. Allora, dottor Aglieri, tra l'altro la bicicletta, se noi la guardiamo, è proprio bella. È bella. Adesso come sono belle, sì. Oggetto, ed elegante, perché ha questa rotondità lineare, è positiva, perché dai, la bicicletta fa subito simpatia come filosofia di vita, poi ecologica, democratica e trasversale. Ma dottor Aglieri, iniziamo dicendo che quando noi usiamo la bicicletta dobbiamo sempre usare la testa, perché è uno strumento di locomozione, ci porta nel traffico, e dunque è indispensabile seguire anche il codice della strada. Apriamo e chiudiamo rapidamente questa parentesi e poi andiamo ai vantaggi della bicicletta. Dottor Aglieri. Beh sì, sono totalmente d'accordo con questa affermazione. Chi va in giro per la strada, chiunque va in giro per una strada in mezzo a un traffico, deve rispettare il codice, deve avere deve rispettare la propria sicurezza e la sicurezza altrui. Quindi questo vale naturalmente anche per i ciclisti, sia quelli che lo fanno a livello sportivo, sia anche quelli che vanno in giro a passeggiare piacevolmente. Quindi ci sono tanti profili di ciclisti, dottor Aglieri, lei li conosce tutti. C'è il ciclista metropolitano, c'è il ciclista della domenica, c'è il ciclista amatoriale, c'è quello che avrebbe voluto fare... imbruttito, come si suol dire. Lei è un ciclista imbruttito? No, no, no. Sono un ciclista appassionato, un cicloamatore. Imbruttito credo di no, non dovrei essere io a giudicare, però. Mandi una foto che giudichiamo. No, la foto è bella e poi soprattutto ci mette il cuore il dottor Aglieri nel suggerire la bici. È un po' di parte perché in realtà, insomma, la bici regala tanti vantaggi. Certo. A partire dal cuore, partiamo da qua noi, dottor Aglieri. Naturalmente non è solo la bici, ma anche la corsa, la passeggiata a passo sostenuto. Non sia di parte lei. Certo, no, ecco, magari facciamo anche un confrontino. Ecco. Va bene. Beh, sicuramente ormai ci sono delle certezze scientifiche assodate da anni e sempre più confermate man mano che passa il tempo che l'attività fisica, utilizzando la bicicletta, è un ottimo sistema per allenare il sistema e l'apparato cardiovascolare, per quindi cercare di prevenire una serie di problematiche che possono esserci, che sono una delle, malattie dei nostri tempi, quindi l'infarto, l'ictus, eccetera. Esistono anche altre attività fisiche altrettanto, se non anche addirittura superiori, che comunque hanno questo tipo di effetto benefico: la corsa, la passeggiata, il nordic walking. Quindi ci sono tanti tipi di attività, ma visto che parliamo di bicicletta, parliamo anche a precisare che la bicicletta viene proprio utilizzata da molti anni come strumento di allenamento nei pazienti cardiopatici che hanno subito un intervento al cuore, un infarto, e che poi vanno verso un progressivo ritorno alla loro vita normale, e questo è un sistema di riallenamento e di rinforzo della loro muscolatura e anche del loro sistema cardiovascolare da molti anni. Dottor Aglieri, ma per essere allenante, o meglio, faccio un passo indietro, per fare bene, quanto tempo dobbiamo stare in sella? Ci sono tanti tipi di pedalata. Pensiamo al ciclista metropolitano che va in bici in ufficio, e quindi quanti chilometri più o meno dovrebbe percorrere perché questo spostamento diventi un'occasione anche di salute e di benessere, ma parliamo anche di chi invece decide proprio di sfruttare tutte le potenzialità della bicicletta e decide di quindi utilizzarla proprio per recuperare la forma o per mantenersi in forma. Vorrei capire quindi la durata e il tempo e se c'è anche una pedalata. Ecco, noi sappiamo che quando parliamo dei vantaggi della camminata, i suoi colleghi dicono: attenzione, non vuol dire andare a vedere le vetrine. Ecco, mi faccio una cosa simile per la bici. Sì, con la bicicletta bisogna pedalare, non dico di buona lena, ma comunque per delle percorrenze abbastanza lunghe anche con una pedalata piuttosto impegnata, quindi non... Certo, passeggiare tranquillamente lungo una bella stradina di campagna a una velocità di 10 km orari è molto piacevole, però è poco allenante. Bisogna che il nostro fisico risponda a una certa sollecitazione, e questa sollecitazione deve essere data da una pedalata abbastanza impegnativa, e per una durata che, se vogliamo esprimerla in termini di tempo, può essere l'oretta al giorno, magari non proprio tutti i giorni, però frequentemente. Oppure la mezz'ora, i tre quarti d'ora, fatti però con una buona lena. Quindi, per esempio, chi va a lavorare, tanto per cercare di essere più pratici nella spiegazione, chi va a lavorare in bicicletta, se fa un percorso di 500 metri, ok, fa un'ottima cosa comunque, perché non usa la macchina, non usa i mezzi, si muove con i propri mezzi e ha una filosofia di tipo ecologico, però 500 metri sono veramente pochini. Se invece sono 4-5 chilometri per andare a raggiungere il posto di lavoro e nell'andata e ritorno complessivamente sono una decina di chilometri al giorno, ecco, quello già è un buon esercizio. anche se non siamo ancora a livelli ottimali, però è già un ottimo modo per muoversi. Allora, intanto arrivano, fioccano i messaggi su WhatsApp al 349-238-6666. Tra poco sentiremo anche Fabrizio da Milano, che ci ha chiamato all'800-24-0024. E Serena ci porta a sottolineare un altro aspetto della bici che lei ha accennato, ma è ancora è molto importante. E ci scrive: vado in bici da qualche anno e ho scoperto che la mia schiena, con tanto d'ernia, non si lamenta come quando cammino. Quindi viva la bici. Vediamo, soprattutto nei paesi, Deborah, te ne accorgerai anche tu quando vai a casa, che ci sono persone anziane che magari non hanno un incedere così sicuro, che inforcano la bici e sembrano di giovanotti. Dottor Aglieri, è così? Sì, è vero. Il ciclismo è forse lo sport che viene praticato anche a livello agonistico, naturalmente amatoriale, anche dagli ultra sessantenni, settantenni, perché è un tipo di attività fisica che si può fare anche a quell'età senza grandi controindicazioni. Anzi, nel caso specifico della persona che dice della schiena, è assolutamente vero, perché il telaio della bicicletta consente di scaricare direttamente a terra e non sulla colonna vertebrale, che è la zona da cui può originare il mal di schiena, la lombalgia, eccetera, il peso del corpo e soprattutto della testa. E quindi c'è assolutamente una logica in questo. Quindi possiamo dire, se siete camminavate come con un certo brio, oppure siete runner e non potete più correre perché magari avete qualche acciacco, potete sempre utilizzare, salire sul sellino. Ma la bicicletta bisogna saperla scegliere anche adeguatamente. È un capitolo che volevamo affrontare naturalmente con il dottor Aglieri, a cui chiederemo di dire la sua. Ma dottore, in linea con noi abbiamo Fabrizio da Milano, che è proprietario di un ingrosso di biciclette, mi raccontano dalla regia. Fabrizio, buongiorno. Buongiorno. Anche lei ne sa quindi di bicicletta. Come bisogna sceglierla questa bici? Ma allora, fondamentalmente la bicicletta deve piacere, cioè deve essere un modello che piace. Però noi diciamo sempre che è come un paio di pantaloni, cioè deve essere comoda ed essere adeguata al lavoro che si vuole fare. Qui, ad esempio, se uno deve andare sullo Stelvio, non ci va di sicuro con la city bike. No, sarebbe ridicolo, evidentemente. Certo. Per cui, innanzitutto, capire che cosa si vuole fare. È già quello, è difficile, Fabrizio. È già difficile nella vita, credo anche nella bicicletta. Ci fermiamo, ritorniamo con Fabrizio e ritorniamo naturalmente con il dottor Stefano Aglieri. Se siete in bici e magari ascoltate Cuore Denari, fateci uno squillo. A tra poco. Cuore e Denari. Sotto questo sole bello pedalare, sì. Ma c'è da sudare. Oggi potremmo sottotitolare l'ultima parte di Cuore Denari con: hai voluto la bicicletta e adesso pedala. Ma prima di pedalare la bicicletta bisogna sceglierla. Ne stiamo parlando con voi. Potete intervenire utilizzando l'800 24 00 24, con il nostro esperto, il dottor Stefano Aglieri, e con Fabrizio da Milano, che è proprietario di un ingrosso di biciclette. Ha detto la bici deve essere comoda come un paio di pantaloni. Io direi come un paio di scarpe. Non andresti sullo Stelvio con i tacchi, col tacco 12, o alla scala con l'infradito, per tornare ai nostri infradito. Fabrizio, due consigli per i nostri amici. Ecco, un'altra cosa è capire il budget, quanto si vuole spendere, perché quello limita innanzitutto la possibilità di scelta, perché si può partire da bici da 100, 150, 200 euro, fino a salire 600, 1000, 2000 rotti. E certo, uno se la fa fare su misura, proprio come i pantaloni su misura o le scarpe. Fabrizio, per quanto riguarda l'altezza della bici, quando noi la scegliamo, è troppo alta, è troppo bassa, bisogna che i piedi appoggino a terra o no? Vale allora questa come misura, però un po' rapido perché devo passare ad Aglieri. Sì, l'unica cosa a cui bisogna stare attenti è che il piede non deve appoggiare come se si stesse camminando, perché vuol dire che è troppo bassa. Ma un po' per sulle punte. Esattamente, ecco, dai. Non proprio in punto come una ballerina, no, insomma, quindi bisogna, ecco, e quindi è anche una questione di gambe, cioè chi le ha più lunghe come Deborah, chi le ha più cortine come me. Grazie Fabrizio, buona bici, dottor Aglieri. Allora, bici un po' per tutti, per ritornare in forma, per mantenersi in forma con il giusto allenamento e con il vantaggio, dicevamo, che la bicicletta può essere utilizzata anche da persone che hanno un po' un apparato muscolo-articolare un po' acciaccato. Assolutamente sì, e anche da persone che hanno delle patologie che magari possono essere invece invalidanti per altri tipi di attività. Torniamo ancora al discorso del cardiopatico. Il cardiopatico viene riallenato nella fase post-acuta con l'utilizzo di cicloergometri e quindi poi è consigliato usare anche la bicicletta, magari non quella da corsa, non certamente andare a fare le gare, ma comunque è veramente un ottimo sistema. E lo stesso discorso vale, come dicevamo prima, per le persone un po' avanti con gli anni, che magari hanno l'artrosi al ginocchio, magari fanno un po' fatica a camminare e invece in bicicletta vanno, che è un piacere, proprio perché la bicicletta ha questa caratteristica di essere veramente un po' per tutti. Dottor Aglieri, però parliamo anche dei limiti, ce ne saranno anche delle attenzioni e delle precauzioni da adottare. Un'ascoltatrice Marta mi scrive: ho smesso di andare in bici perché mi aumentavano i polpacci, è possibile? Quanti chilometri faceva? Tanti. Bisogna pedalare parecchio per diventa quasi un ciclista professionista. Dottor Aglieri, quali sono eventuali attenzioni o precauzioni? Perché ne abbiamo parlato bene, molto bene, abbiamo sottolineato tutti i vantaggi dei pedali, ma ci sono anche delle zone d'ombra? Certo. Intanto io direi che se aumentano i polpacci, quello non è necessariamente un fattore negativo, anzi, vedere delle gambe ben muscolose, ben formate, anche poi nelle donne, ci dispiace, questa è un'idea del dottor Aglieri, però. È un parere personale. Però poi mi sembra che Filippo Aureggi, che è in regia alla parte tecnica, concordi. Non so se grattava la testa, non ho capito, ma penso di sì. Quindi non è un limite. Io quello non lo considererei totalmente uno svantaggio, magari anche dal punto di vista estetico può essere pure una bella cosa, ma comunque sicuramente rinforzare i muscoli delle gambe non è mai una cosa negativa. Chiaro che se parlavamo prima di colonna vertebrale, se una persona soffre di lombalgia acuta o di dorsalgia acuta, insomma, quindi di mal di schiena, colpo acuti, della strega, facciamo quella cosa che lì ti prende. Bisogna mettere a posto qualcosa, bisogna capire, sentendo uno specialista, sentendo l'osteopata, nel caso, prima di salire in bicicletta, perché in quei casi lì la bicicletta comunque può anche invece essere controproducente. Non dimentichiamoci che andare in giro per le strade significa affrontare dislivelli, buche, terreni sterrati se si usa la mountain bike, quindi la schiena in quei casi lì può anche risentirne, per cui un conto è trovare beneficio in una sofferenza cronica, un conto invece è affrontarne l'uso in una fase in cui si ha il mal di schiena, quello assolutamente meglio di no. Un'altra cosa che non è tanto indicata è per chi soffre di insufficienza venosa con varici. È chiaro che lì, anche andando piano, comunque lo sforzo che viene esercitato per pedalare, per spingere la bicicletta, è sempre un... È tutto un lavoro di gamba, quindi... È tutto un lavoro di gambe. E quindi lì, insomma, se non altro, non dico che è una controindicazione assoluta, ma una certa attenzione sicuramente va posta. Allora, tanti messaggi arrivano via WhatsApp di ascoltatori che si raccomandano. Dite, gentili conduttrici, di usare il caschetto. Dite che quando il ciclista attraversa le strisce pedonali deve portare la bici al fianco e non rimanere sulla bici. Dite che ci sono troppo poche piste ciclabili per... Diciamo tutto questo, ma per dirvelo io vi porto a Reggio Emilia, che è la città ideale per chi ama pedalare, in cui direi che il ciclista è sovrano. A confermarcelo un esperto che di città, amiche della bici, se ne intende tanto, ad aver costruito un'app che permette di mappare, decidere decine di città e di definire un indicatore generale. Deborah, si chiama Indice di Ciclabilità Urbana, IQ. Non so se tu hai anche tu un'altra sigla nei denari che assomiglia all'IQ. Abbiamo l'IQ e l'IMU. Che classifica le città in base alla loro sicurezza per chi pedala. Insomma, un'app direi che a cui mettiamo il bollino di cuore denari. Abbiamo pochi minuti per parlarne, ma voglio salutare subito Paolo Ferri, che è ideatore di questa app che si chiama WeCity. Buongiorno. Buongiorno Nicoletta, buongiorno Deborah, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, ci spieghi, attualmente Reggio Emilia guida la classifica come città più sicura, amica della bici, ha un indice di ciclabilità urbana molto alta, il massimo è 5 e Reggio Emilia ha il 3.33, ed è la città che permette alle bici di girare addirittura contromano e i chilometri mappati crescono ogni giorno. Ma quali sono le città che cercano, insomma, vengono subito dopo Reggio Emilia? Allora, intanto guardando la classifica, la prima cosa che viene fuori è che le città italiane prendono comunque delle votazioni, insomma, così, perché un 3,3 è un 6,5, no? Sarebbe se stessimo al liceo. Sì. Quindi diciamo che c'è molto lavoro da fare. Dopodiché i nostri utenti hanno ritenuto che subito dopo Modena venisse Torino, Bologna, con voti più o meno simili, e devo dire però che anche Milano e Roma, che non hanno, non si direbbe, ma invece sono buone. Come chilometri fatti, quindi certo. C'è veramente tanta voglia da parte degli utenti di spostarsi in bicicletta e di migliorare la città per la bici. Allora, lei ha detto i nostri utenti, perché infatti sono i ciclisti attraverso questa app che danno i voti ai loro percorsi. Certo, noi volevamo dare voce agli utenti, quindi non è una classifica oggettiva, stilata dai comuni, eccetera, ma sono i nostri utenti che, spostandosi in bicicletta alla fine di un percorso, possono dare una valutazione, esattamente come ormai facciamo tutti con TripAdvisor, simili. Quando andiamo al ristorante. Dove vi troviamo? Anche per cercare, per muovere. Deborah vuole scaricare l'app e quindi cercare anche, lei vuole votare anche i percorsi e cercare anche dei percorsi stellati. Esatto. Ringrazio il dottor Stefano Aglieri, vada a scaricare anche lei l'app. Complimenti a Paolo Ferri, noi torniamo domani. Buona pedalata a tutti. Buona giornata.